Ritorniamo dunque qua in onda con Radio Talk, la settima puntata di questa stagione radiofonica. Dunque, era doveroso fare l'omaggio a Marco Simoncelli. Cambiamo direttamente argomento perché, come voi avete saputo, a Luzzi è arrivato il commissario. Non è arrivato il commissario Basettone, è arrivato il commissario Ippolito, viceprefetto agli ordini di Cannizzaro. È stato mandato, dunque avrà i compiti di sindaco e di giunta, ma dovete sapere che ci sono tanti episodi di questi giorni. Qualcuno di voi purtroppo mi ha visto anche su RTT dove ho fatto il protagonista assoluto nel fare le due domande, prima a Manfredo Tedesco e poi al segretario del PD, ma c'era un personaggio di Luzio che mi ha incuriosito, pelato iniziali FA, non dico il nome, che mi ha ricordato peraltro un episodio del 1 ottobre in cui leggo direttamente da titolo «Gratta e vinci 1 milione ad Acri», sotto Lauro Grandini di Calabriola scrive «Dimesso Tedesco». Cioè, veramente, quando il caso lo vuole. Dunque, veramente un giorno, 1 ottobre, perché bisogna dire anche queste curiosità, in cui è successo veramente di tutto in Calabria e tutto sullo stile dell'assurdo. Dunque, 1 milione di euro ad Acri, con un gratta e vinci qualunque, quindi avrà speso 5 euro questo fortunato signore nella ricevitoria di Antonio Ginese, che saluto peraltro, lo conosco. Dunque, e si augura peraltro che il vincitore si fa sentire al più presto. Sì, sonna Antonio. Ma non era l'unica notizia farlocca di quella giornata storica per Luzzi, visto che si è dimesso, credo, il vostro 300° sindaco, in quanto la fortuna vuole che a Cosenza un prete corre per un'estrema unzione e viene multato perché andava a 120 km orari. Boh, questo è un episodio che da codice penale non esiste, comunque non è stato mai contemplato, ma bisogna leggere veramente il trafiletto. Dunque, stava procedendo con la propria auto a 120 km orari lungo una strada statale perché doveva impartire ad una persona il sacramento dell'estrema unzione, un comportamento che è costato una multa per eccesso di velocità e la decurtazione di 10 punti della patente. Cornuto e mazziato, insomma. Protagonista della vicenda un prete di Cosenza, Don Luigi, che non batte ciglio per la multa, ma quella proprio che non va giù è la decurtazione dei punti, giustamente. E si è rivolto a un avvocato purché, anzi, scusate, presenti un ricorso al giudice di pace. Dunque, il prete vuole pagare comunque la multa, attenzione, perché procedeva comunque a 120 km orari, ma sembra eccessivo però la decurtazione dei punti, che alcune volte è anche un caso soggettivo, perché occorreva capire da parte dei poliziotti che comunque il prete non andava al night o a ballare, ma doveva dare bensì un sacramento e dunque l'estrema unzione. Una persona, peraltro, che era anche suo parrucchiano e quindi amico, quindi tripla beffa. Dunque, il giudice di pace dovrà decidere in questi giorni e si dovrà rendere conto di questa situazione particolare. Ma quello stesso giorno, dall'altra parte della Calabria, precisamente a Gioia Ionica, succede il sogno di molti automobilisti: la benzina gratis. Dunque, carburante gratis per una notte, self-service che si rompe e i clienti ne approfittano. Dunque, la benzina di un povero cristiano di 59 anni in una benzina esso a Gioiosa Ionica, quindi già potete andare a colpo sicuro. Dunque, serie di coincidenze, dice il gestore, per giustificare questo furto di carburante con il meccanismo del self-service che ogni tanto si inceppa e veramente ne fa di tutti i colori. Gli ignoti automobilisti che avranno fatto del passaparola, giustamente, avrebbero esportato illecitamente dall'impianto ben 1.066 carburante super senza piombo, dal valore di 1.772 euro e 2.982 litri di gasolio per un totale di 4.500 euro. C'è da dire che all'epoca, perché dobbiamo dire sempre all'epoca, visto che la benzina aumenta sempre più, il prezzo era 1.600, no, scusate, 1.663 euro al litro, mentre il gasolio era 1.512 euro. Dunque, beati i fortunati automobilisti che hanno fatto self-service a gratis in quel di Gioiosa Ionica. Dunque, sì, dovevo dire anche un'altra frase della Juventus, no? Qualcuno non si offendeva da casa, dico Pietro. Dunque, questo è di Michel Platini. Io mi faccio segno della croce quando parlo di Platini. Nel giorno del suo addio a calcio, in un Juventus Brescia 3-2 a maggio nevicava a Torino. Veramente una tristezza assurda. Dunque, Ho giocato nel Nancy perché è la squadra della mia città, nel Saint-Étienne perché è la squadra più forte di Francia, era, e nella Juventus perché è la squadra più forte del mondo. Leroy, Michel Platini. Dunque, mandiamo subito un'altra canzone, un'altra degli ABBA, The Winner Take It All, e poi il gran finale.